Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, questa sera parliamo di economia digitale, parliamo di telefonini, parliamo di tutte quelle diavolerie che ruotano attorno all'informatica applicata, alle telecomunicazioni, alla modernità, a come è cambiato il mondo grazie appunto a queste nuove realtà. E lo facciamo con Alessandro Rimassa. Buonasera Alessandro Rimassa. Buonasera direttore, buonasera a tutti gli ascoltatori. Alessandro Rimassa è curatore di una collana di libri, perché di libri parliamo in questo programma, editi da Egea, una collana di libri che si chiama Tag Books. Tag è un po' l'acronimo di Talent Garden, e Rimassa è responsabile della scuola di Talent Garden. Ma facciamo spiegare a lui che cos'è Talent Garden all'inizio. Beh, Talent Garden oggi è uno dei più grossi hub, centri di innovazione digitale a livello europeo. Abbiamo spazi di coworking, organizziamo eventi, facciamo formazione per persone, per aziende, tutto sul digitale. Il nostro spazio più grande e più importante oggi è Talent Garden Calabiana a Milano, insieme poi a Talent Garden Fondazione Agnelli a Torino. Siamo presenti però poi in 5 paesi in giro per l'Europa, in un'idea di connessione digitale tra talenti, tra aziende grandi, tra aziende piccole che nascono, tra professionisti, pensando che il digitale possa essere davvero al centro dello sviluppo economico di cui, come dire, a livello europeo abbiamo assoluto bisogno e urgenza. Ecco, ma non è un po' in contraddizione avere un luogo fisico dove trovarsi, dove fare lavoro insieme, in una società digitale che per sua natura è una società di connessione esterna? Ma a me è un po' una provocazione Rimassa. Le rispondo allora, visto che parliamo di libri questa sera, con un titolo di un libro, Dove nascono le grandi idee, di Steve Johnson, che spiega perché le grandi idee nascono quando le persone si incontrano e non semplicemente quando le persone sono a distanza l'una dall'altra. Io credo che il digitale sia fondamentale per connettersi, ma sia poi la relazione fisica tra persone quella che fa davvero la differenza. Ed è da qui che, insomma, abbiamo costruito spazi in cui avvengono cose, non avvengono solo all'interno degli spazi, avvengono anche a distanza, però lo dico anche per fortuna, insomma, lo sguardo e l'interazione tra persone, una davanti all'altra, ha ancora molto molto valore. Quindi la persona, per fortuna, resta al centro, resta protagonista, resta in qualche modo quello che può cambiare, anche utilizzare questi strumenti nella maniera migliore. Allora guardiamo questi libri, la trasformazione digitale, il futuro della salute, la app economy, tutti i libri con titoli rigorosamente in inglese. Qual è la base della programmazione di questi libri, Alessandro Rimassa? L'idea di Tag Books insieme a Egea nasce per portare tutto quello che noi vediamo quotidianamente all'interno di Talent Garden, all'interno di Tag Innovation School, a un pubblico più ampio, cioè far conoscere in maniera divulgativa quello che l'innovazione digitale sta facendo oggi e le possibilità che ci offre. Così abbiamo costruito questa collana e così sono andato a scovare man mano autori che di mestiere non fanno gli autori, ma di mestiere sono professionisti di questi settori, capaci poi di portare le loro conoscenze a più persone possibili. Uno dei libri più interessanti che abbiamo fatto si intitola Future Health, gli abbiamo dato un titolo in inglese perché oggi l'innovazione digitale questa lingua parla, e Gabriele Grecchi prova a tracciare quello che è il percorso che il digitale e la tecnologia stanno facendo all'interno del mondo della salute, all'interno del mondo degli ospedali, all'interno del mondo della medicina, per permetterci di avere nel tempo, in un futuro breve, una vita decisamente migliore. Non è detto una vita più lunga, ma una vita migliore. E poi abbiamo messo insieme altri contenuti importanti. Gli ultimi 3 libri, appena usciti da pochi giorni, raccontano come cambia il mondo dei negozi, il mondo del retail, che nuovi punti centrali ci sono dietro il marketing, con marketing thinking. E poi libro assolutamente, secondo me, importante, perché digitale e persona vanno a braccetto, Human Center Work, in cui Edoardo Turelli, che è una persona che gestisce team di professionisti del digitale, prende tutte quei nuovi modi di lavorare che ci sono all'interno dei team del digitale e li suggerisce a qualsiasi tipo di azienda, perché secondo me la cosa più bella del digitale, quello che accomuna tutti questi libri, è che il digitale rimette al centro la persona. rimette al centro il valore umano della relazione, della fiducia, della trasparenza, che non è una cosa da poco secondo me in questi anni. Ecco, tra l'altro c'è un libro, se non sbaglio, che invece di parlare di Internet delle cose, che è una realtà ormai che a ogni piè sospinto si ritrova, parla di Internet degli umani, Internet delle persone. Esatto, abbiamo intitolato uno di questi 8 libri usciti finora, Internet of Humans, l'ha scritto Leandro Agro, che è un straordinario interaction designer e product designer che ha provato a indagare questa Internet delle cose, l'Internet degli oggetti, la connessione che abbiamo tra esseri umani e cose. Si dice che insomma nel 2025 saranno più oggetti a essere connessi che persone. Ecco, lui ha provato a indagare tutto questo dal punto di vista dell'esperienza delle persone, dal punto di vista della relazione tra persone e persone e persone e oggetti, domandandosi e provando a domandare poi al lettore che cosa significhi oggi fare design, che cosa significhi oggi progettare degli oggetti. Abbiamo, come dire, ormai nelle notizie quasi quotidiane l'auto a guida autonoma, ma che cosa vuol dire progettare un'auto a guida autonoma? Cosa vuol dire pensare all'interazione che noi abbiamo all'interno di quel mezzo con altre persone, con l'oggetto stesso? Insomma, interagire con il digitale non è un mero fatto di digitalizzazione, ma è un fatto di relazione. Ecco, lo dimostra anche un altro libro che è App Economy, un libro dedicato agli smartphone. Si parla molto anche di queste problematiche in questo periodo, per esempio degli smartphone nelle scuole, come usare, come far usare, come far entrare in qualche modo gli smartphone nelle scuole come strumenti, non di distrazione, ma come strumenti di istruzione. Ecco, l'uso degli smartphone forse può essere un elemento centrale per educare soprattutto i giovani al digitale. Allora, io ogni tanto quando faccio delle conferenze faccio un esperimento, chiedo a un certo punto alle persone davanti a me di tirare fuori il proprio smartphone e una volta che ce l'hanno tra le mani chiedo di passarlo alla persona al loro fianco e a quel punto scatta il panico tra tutti i presenti, perché nello smartphone ormai c'è come dire, l'intera nostra vita, e se pensiamo alle nuove generazioni, quindi vediamo cosa succede oggi nella scuola, se pensiamo a quella generazione Z, a quei ragazzi che inizieranno a diventare maggiorenni dal prossimo anno, ecco, pensiamo a qualcuno che è nato mobile, quindi nato con uno smartphone sostanzialmente in mano, che è nato social e che è abituato a vivere la propria vita con lo smartphone, diciamo, come apposizione, come allungamento del proprio braccio. Come qualsiasi strumento, poi ci sono cose positive e cose negative, e quindi gli strumenti bisogna saperli utilizzare. Però io credo che oggi lo smartphone sia davvero al centro della vita delle persone, e non solo dei più giovani, ma come dire di tutti noi. Quello che abbiamo fatto in questo libro App Economy con Matteo Sarzana, che poi è il country manager italiano di Deliveroo, quella startup internazionale che ci porta la cena a casa quando non troviamo più niente nel frigo. Ecco, con lui abbiamo provato a indagare tutta l'economia che c'è dentro lo smartphone, perché di fatto oggi è un'economia fiorente, è un'economia in continua crescita, è un'economia che dà la possibilità anche a tanti professionisti e tante aziende italiane di crescere, svilupparsi e avere poi una dimensione globale. È un'economia con alcune cose positive, è un'economia con dei rischi, e sentiamo spesso parlare di quelli che sono i gig jobs, quei lavoretti brevi, che dipende sempre come li consideri, perché non possono essere sostitutivi del lavoro con la L maiuscola, però sono ovviamente un ottimo modo di integrare, specie per i più giovani o per chi in un momento ha perso lavoro o per chi desidera costruirsi una vita fatta di tanti piccoli lavoretti più a propria misura. Ecco, l'App Economy secondo me oggi è in rapida evoluzione ed è centrale in tutto quello che può essere un'altra buona parte del nostro sviluppo economico. Ecco, però bisogna rendersi conto anche che questa realtà, questa App Economy sta mandando in pensione in un certo senso interi settori, penso a quello delle banche, penso a quello dell'informazione. Ormai i giornali sono nei telefonini, ormai i movimenti finanziari si fanno col telefonino. Quindi... È vero, io credo che stia mandando in pensione tutti quei, non tanto settori, ma quei player presenti in settori che negli anni scorsi o negli ultimi due decenni hanno in un certo senso tradito la fiducia dei consumatori. Non esisterebbero, a mio modo di vedere, le start-up fintech, quindi tutte queste nuove aziende che si propongono come nuove banche, non esisterebbero se le banche nel tempo non avessero tradito la fiducia dei consumatori. Io credo che oggi la grande occasione per tutti i vecchi player tradizionali di ricostruire meccanismi di fiducia con i consumatori, ma io preferisco dire poi con le persone, grazie al digitale. Hanno davanti nuove aziende, nuove start-up che si stanno comportando in maniera diversa con i consumatori, credo che sia un'occasione da non perdere e credo che si possa ristabilire quel rapporto di fiducia. Io credo che proprio fiducia, trust, per dirlo in inglese, sia la parola centrale nello sviluppo del digitale e in tutta l'innovazione che stiamo vivendo oggi. Ci affidiamo a nuovi brand, nuove marche, nuovi prodotti, nuovi servizi, quando questi fanno sì che noi ci possiamo fidare in maniera trasparente di loro. Ecco, perché sono purtroppo anche strumenti su cui è facile passare anche le truffe, anche gli imbrogli più facilmente che in passato, e quindi mi pare giusto terminare questa conversazione puntando sulla fiducia, puntando sul fatto che bisogna costruire una realtà in cui la persona e quindi la credibilità, l'autorevolezza, la reputazione restino ai primi posti, si possa parlare anche di un'etica, in fondo di questa realtà, di questa rivoluzione tecnologica. Grazie Alessandro Rimassa di essere stato con noi questa sera. Abbiamo parlato della collana curata appunto da Alessandro Rimassa, Tac Books, edita da Egea. Sono piccoli i libri ma molto densi, sono circa 120 pagine ciascuno per 9,90 euro ciascuno. Si trovano appunto in libreria ma disponibili ovviamente anche via internet dei tradizionali ebooks. Su questi libri appunto chiudiamo la puntata di questa sera, ringraziando anche Carmelo Loricella in regia e Luca Cremonese in redazione, e ricordandovi che l'appuntamento con Economia in Pagina è per settimana prossima.